Avete mai pensato al giorno della vostra nascita? Non parlo delle foto, dei racconti che vi hanno fatto, No, dico proprio se avete mai cercato di vederlo, se avete provato ad immaginarlo o addirittura a ricordarlo. Sì, lo so, è una cosa assurda perché i primi ricordi che abbiamo risalgono in teoria ai 3 anni. E più che altro sembrano dei sogni, che altro. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Fabri Fibra è tanta roba, tanta roba, tanta roba. Allora, qualche tempo fa avevo inaugurato questa piccola rubrica che era Le cose che non mi piacciono e lo dico. Usavamo questa sigletta di Fabri Fibra che utilizzava proprio il primissimo termine che avevo usato per dire questa roba la detesto, ed è quelli che dicono tanta roba. Che è una roba, non so per quale motivo mi dà abbastanza fastidio. Avevamo fatto altre liste, un'altra era le persone che sui messaggi scrivono ha ha ha ha e una serie di altre cose. E va bene, niente, oggi devo chiedervi scusa. Devo chiedervi scusa perché qualche giorno fa mi è arrivata questa mail. Tutto scorre, si intitola. Certo, tutto scorre, ma stasera non saprei dirne il motivo. Ho deciso di riascoltare la puntata speciale di Io vendo tutto, che poi in realtà era vendo anch'io, del 19 giugno scorso, la serata finale del concorso lanciato durante il programma. Quindi stiamo parlando del 19 giugno del 2010, prima dell'estate. Prometto che non sono uno che riascolta le puntate già sentite, o che rilegge gli stessi libri, o compra sempre le stesse cose. Generalmente cerco qualcosa di nuovo, tranne i film di David Lynch. Vabbè. Perché perdere tempo con situazioni già vissute a scapito di cose nuove? Ecco, di solito la vedo così. Ma stasera mi andava di fare diversamente. Comunque potrei raccontarti cosa ho provato nel riascoltare la puntata, ma non lo farò. Anzi, mi soffermerò solo su un particolare. Ero lì che ascoltavo, anzi, riascoltavo, divertito la puntata. Tutto bene, almeno fino al minuto 56 e 12 secondi di registrazione. Momento cruciale in cui dalla platea si sente un... tanta roba. E il buon Matteo Caccia cosa fa? Lo ripete. Tanta roba. 251 euro ci sono lì dentro. Eh? Tanta roba, direi. Un applauso per i 251 euro. Non ci posso credere, sorrido stile Joker, proprio lui che in futuro non molto lontano ha detto che questa parola non gli piace, gli dà fastidio, con ancora un sorriso ebete sulle labbra torno indietro, forse ho capito male, invece no, dice proprio tanta roba. La registrazione dura 57 minuti e 42 secondi, mancavano pochi secondi, meno di 2 minuti al termine della puntata, quando pensavo di aver, forse, perso nuovamente tempo... Nell'ascoltare qualcosa di già ascoltato, mi accorgo di un particolare che mi stupisce, che mi diverte e mi fa pensare seriamente: ma se io stessi snobbando tutte le cose che ho già fatto, tutte le esperienze che ho già vissuto, tutti i libri che ho già letto, tutte le canzoni che ho già ascoltato fin troppe volte? Un pensiero nella testa mi dice che forse mi sono sbagliato, forse non si può rivivere mai più una stessa esperienza. Se anche una registrazione che per sua natura non può cambiare nel tempo può darmi una sensazione diversa, chissà un libro. Quindi le situazioni cambiano, io cambio e vedo diversamente le cose, anche a distanza di brevi periodi. Non so, scrivo e rifletto ad alta voce, l'unica cosa che ho realizzato è che non ho abbastanza tempo per rivivere situazioni vecchie e cercarne di nuove. Ora ti saluto e faccio un'altra prova, vado in cantina a prendere l'antologia di Spoon River. Saranno anni che non leggo questo libro, vivendo nel ricordo delle sensazioni che avevo provato allora. A fine serata vedrò se sarà più forte la brutta sensazione di non aver fatto nulla di nuovo, oppure l'aver attualizzato un'esperienza passata. Ciao, William. Questa mail mi è arrivata direttamente a io sono qui @radio24.it, me l'aveva scritta un ascoltatore che si chiama William, che mi ha fatto riflettere soprattutto me, devo dire, prima che lui, visto che è chiaro che insomma le cose si... non lo dico per giustificarmi, però è vero che le cose si capiscono con il tempo, no? È solo facendole le cose che capisci più o meno che cosa ti piace, che cosa no e per quale motivo. E quindi è vero, ho detto tanta roba e lo ripeto ancora. Ho detto tanta roba, ma prometto, non lo farò più. Benissimo, grazie William. Chiusa la parentesi del imparare facendo, apriamo l'altra parentesi che riguarda quello che mi sta succedendo in questi giorni, cioè il fatto che io da una settimana non faccio altro che pensare a questa scatola che ho trovato in cui c'è una lettera che una donna 50 anni fa non ha mai spedito al proprio amante, una lettera in cui diceva che aspettava un figlio da lui. Sono arrivato un sacco di mail anche al profilo Facebook che è Matteo Caccio e sono qua, in cui mi chiedono di leggere questa lettera. Io per un po' ho pensato che fosse sbagliato leggerla, però io continuo a rileggerla a casa mia per conto mio, e quindi credo che sia arrivato il momento invece di leggerla anche a voi. Prima di fare tutto ciò però, a me è venuto in mente proprio quella cosa lì, quella cosa che riguarda la nascita e il concepimento, cioè il fatto che c'è una persona che probabilmente non sa una cosa che invece io so, perché ho letto questa lettera in cui questa donna gli diceva che non avrebbe tenuto loro figlio. E quindi mi è tornata una curiosità che io ho sempre avuta e che riguarda quel momento lì, il momento del come dice una donna al proprio uomo che aspetta un figlio. 800240024 349-238-6666. Solo donne oggi, solo donne che magari sono incinta, magari l'hanno detto da poco, oppure hanno avuto un figlio 20 anni fa e che si ricordano esattamente come gliel'hanno detto, hanno fatto il test da sole, l'hanno fatto insieme, gliel'hanno raccontato a posteriori. 800240024 349-238-6666. Già è arrivato qualche messaggio. È talmente strappalacrime che, Paolino, fai una cosa, dammi un'altra base, una roba che faccia piangere. Bravo. Guarda, quando gli chiedi una base, so che siamo in ritardo, Paolino, adesso vado, non ti preoccupare. Loredana: quando ho annunciato a mio marito che ero incinta del secondo bambino, lui si è lasciato cadere sul divano e, guardandosi intorno con impresso nel viso una sorta di terrore misto a smarrimento, mi ha detto: ma Lori, ma dove lo mettiamo? Pamela: gli ho detto: abbiamo bisogno di una camera in più per Amanda. E lui: va bene, la cerchiamo. Oppure un'ultima, Deborah: per il primo abbiamo guardato il test insieme mentre si colorava. Per la seconda ho saputo di essere incinta dal momento del concepimento e me lo sono tenuta nascosta per sempre, fino al test. Per il papà era un periodo complicato a livello lavorativo, così nessun annuncio romantico, solo una dichiarazione. So che è un periodo difficile, ma io sono incinta. 800240024 349-238-6666. Adesso io vi leggo la lettera di Agata, ma voi, mamme, mi raccontate come gliel'avete detto a vostro marito che aspettavate un bambino. Sì, ci ho messo un po' per capire se leggere o no in diretta la lettera che Agata aveva spedito a Vincenzo. Ho pensato di tutto, che se non l'aveva spedita un motivo c'era, che se l'aveva scritta però forse voleva comunque dire qualcosa, che io ero entrato già abbastanza nella sua intimità, che quella scatola era stata sigillata e quindi così sarebbe dovuta rimanere, chiusa. Questa storia però è più forte di me, è più forte della mia capacità di tenerla nascosta. Mi gira in testa tutti i giorni e quindi ormai ho preso quasi una decisione. Quindi questa che sto per leggervi è la lettera che una donna sposata con due figli a metà degli anni 60 ha scritto e mai spedito all'uomo che amava in segreto per dirgli che non avrebbe tenuto il loro bambino. Caro Vincenzo, ti scrivo questa lettera che è l'ultima lettera che ti scrivo. Avrei dovuto farlo con molto anticipo. Ora però ho avuto il coraggio. Io non lo so che cosa accade quando due persone si incontrano. Saprei dire che cosa è accaduto a me quando ti ho visto, ma non lo farò. Saprei descrivere ogni mio viaggio verso Napoli, con quel misto di gioia e senso di colpa che mi stringevano la pancia. E quella città che non avevo mai visto e che mi appariva così bella e pericolosa. Sono sempre riuscita a vivere, anche se non so come, la mia vita in famiglia e la mia vita con te. È che da bambina mi hanno insegnato a vivere quello che è giusto che vada vissuto, non quello che si vuole vivere. Questo è quello che ho sempre fatto ed è anche quello che ho deciso di fare. Non penso sia codardia, penso sia il mio modo per dare ordine alla mia vita. Stare con i miei figli, i due gemelli, con mio marito. Rimanere in questa città che sembra fredda e in fondo non lo è. Non credo ci sia niente di sbagliato in me, il senso di colpa non riguarda il mio matrimonio, ma il mio scarso allenamento alla felicità. Non sono abituata a tutta questa gioia. Dopo quei pomeriggi con te o le notti passate insieme, mi sembrava di scoppiare. Era una gioia quasi dolorosa, quella che provavo. Come una bottiglia troppo piena che versa il vino che contiene. Fino ad ora questo accadeva a mio malgrado, senza che lo sapessi governare. E se pensavo a noi, al tempo insieme, quella felicità che avrei voluto tenere tutta per me, invece andava in parte persa. Non sapevo mai quale parte traboccava, sapevo però che non sarei più riuscita a recuperarla. E poi è successo quello che forse volevamo, o semplicemente quello che era inevitabile. Ora quella nostra felicità è entrata completamente dentro di me e sta prendendo vita. Ma questa volta so, Vincenzo, che non ce la farò a contenerla tutta. So che non riuscirò ad andare fino alla fine. Non posso fingere che appartenga a me e a mio marito quando invece è solo nostra. Vincenzo, questa è l'ultima lettera che ti scrivo perché non credo sia possibile continuare dopo questa mia decisione. Ho deciso di uccidere la nostra felicità. Ho deciso di farlo con le mie mani e di nascosto. Mi dispiace non avere questa forza. Mi dispiace, ma ho paura che non riuscirei mai a guardarla in faccia. Spero che questa lettera ti trovi bene e magari quando tutto questo sarà finito. Tua, Agata. Ma i sogni belli non si avverano mai. Era d'estate e tu eri con me. Era d'estate tanto tempo fa. E sul tuo viso lacrime chiare mi dicevano solo addio. Avete mai pensato al giorno della vostra nascita? E non parlo delle foto, non parlo dei racconti che vi hanno fatto. Io dico proprio se avete mai cercato di vederlo quel giorno lì, di provare a ricordarlo. Che lo so che è assurdo perché i primi ricordi che abbiamo risalgono in teoria ai 3 anni. E più che altro sembrano sogni, no? Invece sarebbe bello ricordarsi com'è il momento della propria nascita. Riuscire a sentire i rumori, gli odori e la luce che c'è di fuori. Fuori dalla pancia della mamma. Mia mamma dice che io l'ho fatta aspettare un giorno intero prima di nascere. E che poi ha partorito proprio verso le 8 di sera. E poi è successa una cosa strana. Sarà che ci continuavo a pensare. Qualche anno fa mi è successa questa cosa assurda. Ero su un tram e ho visto una donna partorire. Mi infilo le cuffie dell'iPod nelle orecchie perché il rumore ferroso del tram mi innervosisce. Chiudo gli occhi, alzo il volume della musica e ci provo. Cerco di concentrarmi per provare ad immaginare. Immaginare che cosa mi è accaduto esattamente 35 anni fa. Che cosa ho visto. Che cosa ho sentito. Ma soprattutto che cosa ho provato. E allora chiudo gli occhi e ci provo. Sento uno strattone, il tram si ferma. Sono su un tram fermo nel centro di Milano. Di fronte a me una donna sta urlando, ma io non la sento. Ho la musica nelle orecchie e vedo solo la sua bocca, aperta, in un grido che deve essere fortissimo. Mi sfilo le cuffie, ora sì, ora la sento bene. Avrà 30 anni, è minuta, ha i capelli corti neri e una pancia enorme. Tiene le gambe larghe e un paio di persone accanto a lei le stringono le mani, ma lei se ne frega e urla, urla come non ho mai sentito urlare nessuno. Io sono paralizzato e la guardo. Guardo i suoi occhi chiari, arrossati. Piange, stringe e urla. Il signore di fianco a me chiama l'ambulanza, poi mi dice di spostarmi, di non stare lì, ma io sono come ipnotizzato da questa donna che urla tutto il suo dolore. Arriva l'ambulanza, le persone scendono, io rimango in un angolo del tram a guardarla. Il medico dell'ambulanza si inginocchia davanti a lei e le grida qualcosa che non capisco, nemmeno lei credo. Lei piange e mentre lo fa, improvvisamente la sua faccia diventa familiare. Sì, ha 30 anni meno, è un po' più magra, ma è mia madre. E mentre il medico fa dondolare il bambino per i piedi, vedo che quel bambino sono io. E sono bagnato, e ho un gran freddo. E tutto intorno c'è luce, e c'è rumore. Io sono solo, sono appena nato, e ho paura. Mi è venuto in mente quel giorno sul tram, leggendo la lettera di Agata. Ho pensato a come deve essere stato 50 anni fa, quando si è accorta di aspettare un figlio, il terzo che non era di suo marito. E mi è venuto in mente quel ricordo vivido di un bambino che nasce e che quel bambino sono io. Poi però ho smesso di pensare a lei e ho iniziato a pensare anche a lui, a Vincenzo. Per un attimo ho realizzato che io, a 50 anni di distanza, sapevo una cosa che lui ancora oggi non sapeva. Se era ancora vivo lui chissà dov'era e che vita aveva fatto senza di lei, senza quella lettera e senza quel figlio che non sapeva nemmeno di aspettare. Ho pensato che forse lui la sua nascita non se la ricordava, ma che si sarebbe potuto ricordare quella di suo figlio se l'avesse mai vissuta. E che fosse giusto o sbagliato, che fosse sensato oppure no, io questa cosa gliela dovevo dire. Ci ho pensato tutta la sera, poi sono andato a letto e quando mi sono svegliato stamattina ho deciso. Questa sera io parto per Napoli. Pronto? Pronto? Pronto mamma, sono Matteo, tuo figlio. Ciao Matteo. Ciao, ti disturbo? No, hai chiamato a casa. Ho chiamato a casa, sì. Ma sai perché? Perché si è chiamata anonima, io per principio non rispondo. Bravissima, brava, brava, fai bene. Senti, volevo dirti, la cosa che io vorrei sapere da te è, tu ti ricordi come è stato che tu hai detto al papà che mi aspettavi? Ma guarda, io avevo la Titi piccola e aveva un anno, quindi l'allattavo ancora io e non mi ero neanche accorta di essere incinta perché non avevo le mestruazioni. E poi dopo mi sono accorta che ero incinta di te e niente, mi ricordo che l'ho detto al papà tranquillamente. Era più preoccupata la nonna di questa seconda maternità. Dai, certo, però tu hai fatto il test normalmente, sì, e l'hai fatto da sola e poi gliel'hai raccontato. Sì, certo. E lui che faccia fa? Cosa ha detto? Francamente non mi ricordo, però insomma eravamo giovani tutte e due, un altro figlio non è che fosse, cioè non è che proprio eri in programma. E invece scusami, la Titti che era la prima figlia, come è avvenuto? Anche lì ti sei fatta il test e poi gli ha detto Tino, sì, guarda che... Sì, ma anche perché la Titti pareva che non potesse venire, che io avessi dei problemi, tutte queste palle che dopo due mesi di cure, che poi erano, sono state 10 iniezioni, sono rimaste subito incinta della Titti. E quindi, ma dove eri? In cucina, in salotto, non te lo ricordi? Ma guarda, non mi ricordo, sono passati troppi anni, comunque, francamente... Comunque un bel momento, mamma, tanta poesia. A posto, tutto okay. Qua. Grazie mamma, un bacio. Ciao, ciao, ciao, ciao. Mia mamma non se lo ricorda molto bene, però invece c'è qualcuno che se lo ricorda. 800 24 00 24, 349 238 6666. Sono Giorgia, gliel'ho detto ballando e cantando. Lui si è messo in ginocchio dopo 15 anni e dopo aver saputo che avevo un cancro all'utero. Olè! Ho messo una lettera nella posta in cui la bambina annunciava il suo arrivo e poi abbiamo pianto insieme dalla felicità. Io sono un papà in fieri, lo diventerò tra 6 mesi. Ero con mia moglie quando ha fatto il test di gravidanza, delle emozioni più belle mai provate. Ciao Mirko. Adesso la borsa e poi... Mamme, future mamme, neomamme o mamme passate, il momento in cui gliel'avete detto, com'è stato? Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto siamo in montagna. C'è un sacco di neve. È una neve, direi fresca, perché è intatta, se non fosse invece per le orme dei due protagonisti della foto, che sono una ragazza che ha i capelli rossi, un paio di occhiali, un maglione blu e dei jeans, e veste credo quegli stivali che vanno molto adesso tra le ragazze, che sono brutti brutti, che sembrano le zampe di un orso foderati dentro e fuori, che usano i surfisti in Australia e fanno tanto moda, anche se sono effettivamente brutti. E lei però è chinata sull'altro protagonista della foto, che è un cane, ed è un cagnone di quelli di color birra scura, direi, quasi arancione. È un molossoide, credo sia un dog de Bordeaux, il cane, quello di Tequila e Bonetti. C'è un sacco di luce perché la neve fa un riflesso bianco tutto intorno. Lui sta giocando, lei lo sta guardando e sorride. Sono Maddalena Garofalo, ho 23 anni, sono alla Abbazia in Alto Adige a 2000 metri con uno splendido sole, a metà strada tra l'estate e l'inverno. Io sono qui. Indovina una cosa. Cosa? Non saprei. Sono incinta. Che ne facciamo? Sì, del... Ma cos'è? Io stavo pensando di stopparlo subito, prima che sia peggio. Perché a educazione sessuale dicevano che la gravidanza di solito porta a un neonato. Generalmente sì, sì. Va così quando le nostre madri e le prof sono incinte. Ma scusa se ho fatto sesso con te. 800 24 00 24, 349 238 6666. Solo donne oggi, solo mamme o future mamme, perché potrebbe essere che in questi 9 mesi ancora non sia successo e che glielo dobbiate ancora dire. Spero di no, spero prima della fine dei 9 mesi. Al vostro marito, al vostro compagno, che siete incinta. Ci sono dei messaggi da leggere, però questi messaggi sono particolari oggi, quindi vorrei che tutti piangessero di là dalla radio. E quindi Paolino, ti prego, una base degna di una Raffaella Carrà qualunque. Benissimo. Quando gli ho detto che aspettavamo il nostro primo figlio, avevamo appena preso una 1 usata. E mentre gli dicevo che forse era più comoda una macchina a 4 porte, lui ha lanciato il panino che stava mangiando e ha cominciato ad urlare che avrebbe voluto scegliere anche lui quando diventare papà. Ciao, Fernanda. A tavola, davanti ad una fetta di prosciutto che non poteva mangiare, e dopo è nato Ricky, il secondo, Luca. Quando mia madre lo disse a mio padre, lui rispose: meglio un battesimo che un funerale. All'epoca avevano 44 anni lei e 50 lui. E mi mancano, Alberto. Guarda Alberto, mancano già quasi anche a me. L'ultimo, altrimenti poi è troppo. Ho portato Giacomo, mio marito, al ristorante indiano, il suo preferito. A metà della cena gli ho dato l'astuccio di un gioielliere. Dentro, ben impacchettato nella carta velina, un ciucciotto. Non ha avuto la forza di parlare, ma davanti a tutti si è alzato e mi ha baciato come in un film. È successo nel luglio del 1999. 800240024 oppure 349-238-6666. Sentiamo invece chi l'ha detto a voce. Andiamo a Lucca da Marina. Pronto Marina? Ciao, ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, grazie. Bene, raccontami come gliel'hai detto. Io non l'ho detto a mio marito, ma è stata la mia compagna a dirlo a me, dopo tutto l'iter. Aspetta, però chi era incinta delle due, Marina? Ero io. Eri tu, ok, perfetto. Ero io, siamo andate in Danimarca, inseminazione, eccetera, mm-hmm. E poi quando eravamo lì io mi sono fatta prendere dal panico, ho detto no, ma non sarò rimasta subito incinta, visto che la media è di 1 a 9. Sì. E invece ero quell'uno. E quanti anni fa succedeva? Abbiamo iniziato ad urlare 2 anni fa, perché la mia bimba ha 1 anno e mezzo. Senti, e quindi scusami, è stata lei a dirtelo? Perché? Perché lei è entrata? Lei, perché io non c'avevo il coraggio di andare a vedere il test, quindi ho detto vai tu. E dopo mi quindi ha detto stiamo calme, sì, stiamo calme tutte e due. E si è iniziata ad urlare, io perché ero terrorizzata, perché a quel punto dovevo dirlo a tutti, ai miei, e ufficializzare la cosa, e lei perché era contenta. Chiaramente. Marina, scusami, perdonami una domanda da ignorante eterosessuale. Com'è che si decide in una coppia di donne omosessuali chi farà la mamma? Vabbè, noi è stata un po' una cosa forzata, perché la mia compagna non ne può avere di figli. Ah, vabbè, no, okay, quindi ho sentito di tante donne che addirittura l'hanno fatto insieme e poi si sono trovate con due? Con due bimbi. Ok, perfetto. Marina, come si chiama tua figlia? Clea Yoshimi. Vabbè, un nome normale no, Marina. No. Cioè, già c'ha due mamme. Ma detto questo, almeno il nome poteva essere normale. Infatti, già c'ha due mamme. Un nome tipo perché siamo buddiste. Siete buddiste, pure buddiste siete. Tutte ce le avete, Marina. Tutto. Marina, grazie mille, buona giornata. Ciao Matteo. Ciao, alla prossima, ciao, grazie. Andiamo da Barbara alla provincia di Alessandria. Pronto? Sì, ciao. Ciao, buongiorno Barbara. Tu? Ciao. Quanti figli hai tu? Due. E come gliel'hai detto? Allora, la prima, una femmina, non gli ho detto niente, gli ho fatto trovare il test di gravidanza sul tavolo, mm-hmm. Non c'è stato bisogno di dire niente, nel senso che neanche lui ha detto niente, ci siamo messi a piangere, anche perché era fortemente desiderata da anni, quindi per noi era veramente una gioia immensa. E il secondo? E il secondo invece è stato un fulmine a ciel sereno, nel senso che è arrivato e ho fatto il test. Ero da sola in cima alle scale, lui è arrivato dal lavoro, l'ho aspettato lì e gli ho detto amore siamo in 4 e lui mi ha detto a cena, ho detto no siamo proprio 4-4, ma 4 mi ha detto sì ho detto siamo in 4. E allora, guarda Barbara, perdonami, questo mi ricorda tanto quella scena di Fantozzi in cui lui torna a casa e la moglie gli dice sai che Mariangela aspetta un bambino, lui dice cazzo ma alle 8:30 di sera, sembra più o meno la stessa scena. Grazie mille Barbara, ciao. Prego, e buona giornata. Ciao, ciao. Paolino, dammi ancora un attimo quella base lì che oggi proprio voglio far piangere tutti quanti. L sarà il nome, Laura. Cercavamo un figlio da pochissimo, troppo bello per essere vero, credere al suo concepimento. Il primo test fatto insieme non lasciava dubbi, ma io, troppo felice per crederci, ne ho voluti comprare altri 5, tutti di marche diverse, ovviamente. E il lunedì sono andata di corsa a fare gli esami del beta. Cos'è il beta? Ci fosse uno che ha avuto un figlio qua dentro, in 3, fosse stato pure Bonini, manco lui. E poi ancora, stai di questa base, Paolino. Ho acquistato un biberon giocattolo di quelli in cui il latte c'è e poi sparisce. L'ho incartato come un regalo e ho scritto sul biglietto che quello sarebbe stato uno dei giochi delle nostre notti. Bea. Sono un uomo che ha saputo prima di sua moglie che era incinta. Me l'ha detto il medico. Fecondazione artificiale. Come vincere al lotto. Beppe di Brescia. Ciao Beppe, a questo proposito sentiamo, c'è un uomo al telefono, giusto? È Leonardo D'Alecco. Pronto Leonardo? Pronto. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno Matteo. Raccontami tutto, tu che sei un uomo. Guarda, sei l'unico uomo che sento oggi, Bene. non capita spesso, diciamo. Perché? In queste occasioni. E io lavoravo in ospedale allora. Sì? Quando ho appena sposato, già lavoravo in ospedale, uh-huh. E frequentavo il laboratorio di analisi. Sì. Tra i quali anche quello per i test di gravidanza. Sì. No, eravamo giovani, avevo 22 anni, eravamo appena sposati, ritorno al viaggio di nozze, mestruazioni, niente. Ma chissà cosa sarà successo. Chissà. Facciamo il test di gravidanza. Ho scoperto che aspettavamo. E l'hai scoperto prima tu. E come gliel'hai detto, Leonardo? Sono andato a casa, senti. Senti, amore. Sembra mia madre. Evidentemente 30 anni fa si diceva così. Senti, guarda, sei incinta oppure sono incinta. Leonardo, grazie mille. Purtroppo c'è pochissimo tempo. Buona giornata. Ciao, alla prossima. Sentiamo un'altra donna, Francesca da Roma. Pronto? Salve. Ciao Francesca. Ciao. Allora, dico con molta velocità. Vai. Premesso che eravamo sposati da 8 anni, che avevo scoperto che mio marito voleva un figlio, ma non da me perché ero troppo disordinata. Me ne ero tornata a casa, diciamo, dei miei, però senza i miei, che hanno un'altra parte, una casa libera. E quando ho scoperto invece che, visto che eravamo insieme da poco, ero rimasta incinta. Allora l'ho chiamato per telefono e gliel'ho detto. E lui ha iniziato a piangere, piangere che alla fine ha detto: aspetta, vengo in macchina, vengo lì sotto, vengo a casa, diciamo, a casa tua, a casa nostra, perché penso che ti senti male. Sono andata lì e sono rimasta lì la notte. La mattina dopo ho scoperto che mi avevano rubato la macchina con tutte le tende, che dovevo partire per il campeggio, tutte le cose dentro e la macchina pure. Grazie mille, buona giornata, ciao, alla prossima. Grazie. Ciao, grazie. Oh. Grazie a te, grazie a Paolino Corleone, a Vittorio Mussini, a Tiziano Bonini, anche se oggi non c'è. Abbiamo chiuso, siamo in ritardo, voi state lì, ci sentiamo lunedì. Io questo weekend vado a Napoli.